Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Proprio come l'Epifania, che tutte le feste le porta via, ci sono alcuni alimenti che contengono sostanze che aiutano a portare via gli eccessi delle feste. Li conosciamo oggi insieme al dottor Stefano Arzegovesi, direttore del Centro Disturbi Alimentari del San Raffaele di Milano. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. È la stagione, diciamo, che cominciamo in questo momento dell'anno a preoccuparci così di eliminare gli eccessi, quindi diciamo un po' di eliminare le scorie accumulate non solo durante le feste ma durante l'inverno. E quindi è un ottimo momento per privilegiare le foglie verdi, che è una famiglia vastissima, quindi pensiamo dalle bietole agli spinaci, piuttosto che alle cime di rapa, piuttosto che alla cicoria e a tantissime altre. È anche un momento ideale per sfruttare l'effetto benefico delle cosiddette crocifere, quindi la famiglia del cavolo. Quindi cavolo, broccolo, cavolfiore, cavolo nero, piuttosto che anche le foglie di rucola, che sono della stessa famiglia. Cosa hanno di buono le foglie verdi e le crocifere? Hanno una grandissima concentrazione di sostanze detossificanti. Ci sono anche degli studi scientifici molto interessanti che fanno vedere come alcune sostanze, ad esempio il solforafano, che è contenuto nella famiglia dei broccoli, riesce a farci eliminare con grande intensità, fino a circa il doppio, le sostanze tossiche accumulate nel nostro organismo, comprese le sostanze inquinanti, quindi pensiamo, non so, al benzene o comunque le sostanze che inquinano l'aria o l'acqua o l'ambiente. Quindi è il momento giusto per usarle, ricordiamoci sempre, con un po' di erba aromatica e di spezia, che potenziando l'effetto antiossidante migliora ancora di più l'effetto detossificante per ogni nostra singola cellula. Dottor Arzegovesi, alias nostro medicuoco quasi cuoco, passiamo allora alla ricetta. Allora, io vi consiglierei di farvi una gustosissima cima di rapa, che potremmo chiamare una cima di rapa potenziata di solforafano. Cosa vuol dire? Il solforafano, che è una delle sostanze benefiche detossificanti di cui dicevamo, non è immediatamente disponibile nella famiglia dei cavoli. Dobbiamo essere noi a farlo uscire seguendo un certo tipo di accorgimento. Qual è l'accorgimento? Che l'enzima, che si chiama mirosinasi, che poi fa produrre alla pianta il solforafano, per poter essere attivo deve essere schiacciato o tagliata la verdura. E quindi o la facciamo a pezzetti e lasciamo lì tutto a riposare per un pochettino, se no qual è il problema? Che la mirosinasi, essendo un enzima sensibile al calore, quando poi noi cuociamo le nostre cime di rapa, chiaramente viene a disattivarsi. C'è un trucchetto che io vi consiglio, più pratico, se non avete tempo di stare lì ad aspettare le verdure tagliate prima di cuocerle. Le tagliate normalmente, quindi io vi consiglio padella, bella calda, filo d'olio, aglio schiacciato, un pizzico anche di pepe peperoncino, che sta sempre bene. A questo punto buttate le vostre cime di rapa tagliate a pezzettini e iniziate a saltarle in padella. A questo punto l'enzima mirosinasi non sarà attivo, ma c'è un modo alla fine della preparazione per riattivarlo con grande forza. Qual è? Aggiungere un pochino della stessa cosa, quindi di un paio di foglie di cime di rapa crude a pezzettini, perché a questo punto quel poco enzima che c'è catalizza e fa ripartire tutto, piuttosto che aggiungere qualcosa della famiglia delle crocifere, che guarda caso c'è nella tradizione alimentare di tutti i paesi mediterranei. Ad esempio il cappero tritato, il cappero è della famiglia delle crocifere, piuttosto che ad esempio un pochino di senape, piuttosto che di qualche grano di senape o in polvere, piuttosto che una puntina di senape, spessissimo usata con i cavoli, proprio per avere questo effetto di potenziamento non solo di gusto, ma anche proprio di esprimere al massimo poi l'utilità di questa sostanza amica, che è il solforafano. Grazie dottore Arzegovesi per questa ricettina, noi ci sentiamo presto, buona giornata a lei. Buona giornata a tutti e buon inizio d'anno. E buon inizio d'anno a tutti, un saluto da Nicoletta.